Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. A Reggio Calabria, dove sono stato nei giorni scorsi, il pentito Marco Marino potrebbe raccontare che le bombe nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2010 e quella sotto casa del procuratore generale Salvatore Di Landro il 25 agosto non sarebbero altro che due messaggi, l'uno più forte dell'altro, contro il nuovo corso della procura generale. Ni vidimo un appello, ci vediamo in appello. Questo era ciò che da anni e anni si diceva alla fine di ogni giudizio che in primo grado vedeva soccombere a Reggio Calabria gli interessi delle cosche. E in appello, chissà perché, spesso le cose si raddrizzavano. Questo status quo doveva rimanere. Rivoluzionarlo avrebbe significato rompere il patto decennale tra professionisti, alcuni settori della magistratura, cosche e servizi deviati. Punto. Il pentito potrebbe, e a quanto sembra, vorrebbe raccontare queste cose. Uso il condizionale per due motivi. Primo, ne ha accennato la Procura della Repubblica di Reggio, che l'ha correttamente stoppato. Di ciò che concerne i fatti che riguardano i magistrati come parti offese, se ne deve occupare la Procura di Catanzaro. Secondo, dal 19 settembre, da quando cioè Marino ha espresso la volontà di collaborare, la Procura di Catanzaro non l'ha mai ascoltato. Strano ma vero, ma dalla Procura di Catanzaro, che ho personalmente contattato, fanno sapere che non solo non sanno quando lo ascolteranno, ma fanno anche sapere che dalla Procura di Reggio avrebbero ricevuto appena una sintetica nota in cui nessun accenno diretto agli attentati verrebbe fatto. Un basso profilo probabilmente voluto, ma che stride notevolmente con quel che nei corridoi degli uffici giudiziari calabresi, in alcune stanze del potere romano, si racconta. Vale a dire che Marino vuole mettere a disposizione la sua verità su ciò che sta dietro alla serie di attentati alla Procura Generale. Buona vita e a domani.